Siamo con Riccardo Luna, curatore della mostra Dreamers 1968. Come eravamo, come saremo? Al Museo di Roma in Trastevere dal 5 maggio al 2 settembre. Riccardo, ben trovato. Grazie dell'invito. Ce ne parli un po'? Ah, sono felice e anche emozionato di aver realizzato questa cosa con tante persone. È stata, anzi, forse siamo riusciti a farla proprio perché eravamo in tante persone e il 68 ancora emoziona tanto. Perché in realtà l'idea ci è venuta molto tardi, era gennaio, siamo partiti dall'archivio fotografico dell'Agenzia Italia, un periodo Lagi, che è l'agenzia che dirigo, aveva un servizio fotografico, c'erano le foto del 68 buttate da qualche parte a Pomezia, in un magazzino, le abbiamo viste, ci sembravano emozionanti e abbiamo detto proviamo a fare una mostra. Poi siamo resi conto che l'argomento del 68 non era una roba di un'agenzia, ma era una roba di tutti. Abbiamo chiamato tutte le agenzie del mondo, la PIL, la Reuters, Transpresa, anche l'ANSA, ma anche i freelance dell'epoca, Cardi, Geppetti, Contrasto, tutti i fotografi dell'epoca, abbiamo detto ci condividiamo insieme questi materiali. Siamo andati alla RAI che ci ha dato i materiali di Rete, che siamo andati all'archivio del Movimento Operaio Democratico che ha tirato fuori dei video emozionantissimi, tra cui alcuni minuti inediti della famosa battaglia di Valle Giulia del 1 marzo. Ed è venuto fuori una cosa molto composita, molto larga, che racconta tutto il 68, dico spesso, non solo la parte dei movimenti, racconta anche il Vietnam, racconta la musica, racconta John Baez, racconta lo sport, è stato un anno di grandi rivoluzioni anche nello sport, Dick Fosbury che ha inventato un altro modo di saltare, i pugni chiusi neri di Carlos e di Smith dopo che vincono i 200 metri. Insomma, davvero un anno rivoluzionario, emozionante, che secondo noi andava in qualche modo raccontato, anzi ci siamo stupiti del fatto che nessuno l'avesse fatto e tutti insieme in pochissimo tempo abbiamo montato questa cosa che speriamo non serva tanto a celebrare il passato quanto a ispirare il futuro. Abbiamo chiamato Dreamers, sognatori, perché quello che ci piaceva nel 68 era lo sguardo che abbiamo visto negli occhi delle persone fotografate, una voglia di cambiare il mondo, una positività, anche un'allegria, anche una capacità di soffrire per quelli che soffrono e fare tu le sofferenze degli altri. Tutta questa cosa ci ha ispirato, speriamo che possa ispirare anche le nuove generazioni, perché quando si perde la capacità di sognare e di immaginare un mondo migliore, il futuro è finito. Allora noi speriamo invece che il futuro possa ricominciare, che questa mostra possa dare un piccolo contributo. È per questo che tra l'altro l'abbiamo fatta in collaborazione con il MIUR, perché per tutto maggio ci saranno le scuole, non solo di Roma, che andranno lì e potranno ascoltare tra l'altro i discorsi di Martin Luther King, di Bob Kennedy, leggere la poesia di Pasolini, cioè vedere e scoprire delle cose che poi nei programmi scolastici non si riescono mai a fare, e invece è importante che un ragazzo nel suo bagaglio culturale abbia. Riccardo, quindi sono fotografie audio e video? Ci sono foto, audio e video, sì, oltre ai documenti abbiamo tra l'altro ottenuto le prime pagine storiche di Stampa, Messaggero, Corriere, Espresso. Quindi abbiamo anche il modo in cui questa cosa venne raccontata sui giornali, abbiamo i videogiornali di controinformazione che ci ha dato l'Archivio Movimento Operaio, quindi abbiamo anche l'altra informazione che come sapete era molto molto distante dall'informazione ufficiale, quindi abbiamo tutte queste cose e abbiamo anche alcuni cimeli, c'è cioè la Coppa che vincemmo, l'unico europeo che ha vinto l'Italia del calcio nel 68, la torcia olimpica che ci ha dato il CONI, un jukebox con le 50 canzoni di quell'anno, abbiamo scoperto che la canzone dell'anno fu Azzurro di Celentano, ma è stato l'anno anche di Vengo anch'io, no tu no di Iannacci, quindi un anno dove è anche bello riascoltare quella musica perché poi è stata anche una musica rivoluzionaria, cioè era una musica che cantava la rivoluzione. Senti, quante sono le fotografie esposte? 176 foto, 56 mai viste prima, 3 ore e mezza, forse 4 ore alla fine saranno di video, di cui almeno 20 minuti anche questi inediti mai visti prima. Senti, Quindi una mostra. tutte queste fotografie saranno suddivise in una specie di sezioni? Sì, ci sono delle sezioni, partiamo ovviamente col mondo, che tra l'altro in quel periodo il mondo era sentito come una cosa molto vicina a noi, perché quando c'era il Vietnam, c'era la Primavera di Praga, c'era la Grecia dei colonnelli, erano cose che emozionavano i ragazzi che ti portavano in piazza. C'è ovviamente il Maggio francese che prende una parete tutta a sé, c'è un'aula dedicata tutta a Valle Giulia, una doppia stanza molto grande che racconta le due Italie, quello è anche l'anno in cui finisce la Dolce Vita. E tu vedi che convivono nello stesso paese l'Italia povera e disperata del terremoto del Belice e la fine della Dolce Vita con ancora agli attori che vanno a Piazza del Popolo su un cammello in un massimo di eccentricità. Era veramente un'Italia molto composita, molto diversa, l'abbiamo dovuto raccontare tutta quanta e poi abbiamo ricreato una specie di aula universitaria occupata dove ci si potrà invece sedere e immergersi nei video dell'epoca, quindi anche lì con tutti i materiali originali. Ti senti, è comodi come al cinema e ricominci a vivere quello che è il 68 come standoci dentro. Riccardo, tra tutto il materiale raccolto c'è qualcosa in particolare che ti ha emozionato e ti ha sorpreso? A me mi ha emozionato tutto perché me la sono fatta, è scelta e capata veramente dai primi negativi agli sviluppi, alla scelta del materiale, ed è stato bellissimo ogni volta vedere come si aggiungevano delle cose belle. A me piace moltissimo una foto strepitosa che purtroppo non è ad altissima definizione, dove si vede una marea di ragazzi a Villa Borghese, che attraversano la Villa Borghese prima di andare a Valle Giulia, dove poi sarebbe stata una battaglia drammatica, e loro sono allegri, spensierati, positivi, desiderosi di cambiare il mondo. Il titolo I Sognatori l'abbiamo scelto guardando quella fotografia, guardando i volti di questi ragazzi, perché ripeto, quando si ha voglia di cambiare il mondo e renderlo migliore, il futuro non può mai essere peggiore. Riccardo, io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento con Dreamers 1968, come eravamo, come saremo al Museo di Roma in Trastevere dal 5 maggio al 2 settembre. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi.